right? E 18:57 minuti primi in ascolto dai microfoni di Radio Default. Con qualche minuto in anticipo cominciamo la consueta puntata di Oops Connecting Fights, la trasmissione sulle battaglie ambientali del lavoro in Italia ed in giro per il mondo. E quindi ho parlato anche troppo, diamo spazio ora alla nostra consueta sigla. Nessun inferno ci potrà fermare a partire da questo momento, come dicevano i Rage Against the Machine nella nostra fantastica sigla. E questa è Oops Connecting Fights, con la consueta rassegna stampa settimanale dei fatti e degli avvenimenti che avvengono appunto in Italia, nei castelli romani e nel mondo. E iniziamo con il locale, con una campagna di solidarietà che sta partendo dai castelli che resistono contro la costruzione dell'inceneritore e che resistono contro le pratiche liberticide portate avanti dallo Stato, che continua a reprimere chi lotta per la difesa di territori. Stiamo parlando del caso di Adriano e Gianluca, due compagni, due ragazzi, due amici che attualmente sono in carcere a Ferrara e ad Alessandria, accusati di terrorismo. Campagna mediatica condotta da i ROS, i gruppi operativi speciali dei carabinieri, che al settembre scorso hanno accusato questi due ragazzi di alcune azioni di sabotaggio alla discarica di Roncigliano e per alcune azioni contro delle banche, contro l'ENI e contro una pellicceria. Dei reati, come leggiamo dal blog di Occupazioni Precari Studenti, che si occupa di questa trasmissione, dei reati che rientrerebbero nella configurazione del reato comune, ma che non si sa bene come gli uomini dei ROS sono riusciti a trasformare in banda armata con finalità di terrorismo. E questa non è soltanto delle parole che vengono aggiunte su un foglio di accusa, ma quando si viene accusati di terrorismo si deve subire la carcerazione preventiva, l'isolamento e tutte pratiche repressive nei carceri speciali, appunto, di Alessandria e di Ferrara, che magari per un danneggiamento comune non sarebbero mai state comminate. E questo non sembra che sia un fatto casuale, ma è un fatto che si sta ripetendo sempre più spesso, non solo ai Castelli Romani, ma anche e soprattutto in Val di Susa, dove l'utilizzo della categoria di terrorismo viene utilizzata al fine di criminalizzare e stigmatizzare agli occhi dell'opinione pubblica qualsiasi atto di ribellione e di dissenso contro le politiche che quotidianamente ci vengono imposte, che può essere la costruzione di un TAV, che può essere la costruzione di un inceneritore o il mantenimento della discarica. Elemento ancora più grave, che va ad aggravare una situazione già grave, cioè quella di Gianluca Adriano, è il tentativo da parte della magistratura di impedire anche fisicamente a questi due ragazzi l'accesso al processo. Che significa? Si stanno inventando, i magistrati stanno cercando di far passare cosa che sta avvenendo anche con i Notav, non solo con Gianluca Adriano, di far passare il fatto che si possa seguire il proprio processo in videoconferenza, cioè non essere fisicamente in aula. Tecnicamente viene giustificato per gli elevati costi che si hanno nel trasferimento di un detenuto, appunto, da un capo all'altro d'Italia, come se poi qualcuno si preoccupasse dei costi esorbitanti di un TAV o di un inceneritore, che sono ben più inutili dei diritti costituzionali alla difesa sanciti dalla nostra Costituzione. E quindi si va così di fatto a ledere il diritto alla difesa che ognuno di noi ha in base alla nostra Costituzione. Quindi un grande accanimento nei confronti di chi resiste, che ricordiamo non sono solo Adriano e Gianluca, ma per quanto riguarda nel TAV si è tentata la stessa operazione con Chiara, Niccolò, Claudio e Mattia, per cui sono scattate le accuse di terrorismo, ma operazione che per fortuna nel loro caso non è riuscita. Mentre allo stesso tempo non si vede tutta questa solerzia da parte delle forze dell'ordine nei confronti di chi i territori di fatto li devasta, ben più di una vetrina di una banca bruciata o di un mezzo della discarica danneggiato. Stiamo parlando della vicenda Cerroni, a cui arriveremo fra poco, che da 30 anni, cioè non proprio da 30 anni, però da 30 anni esiste la discarica, lui da buoni 20-25 anni, gestisce e avvelena il territorio sud, territorio occidentale dei Castelli Romani, quello che dà sull'Ardeatina. Pensiamo alla vicenda Colleferro, dove sono stati inquisiti 26 dirigenti e impiegati per traffico illecito di rifiuti, visto che negli inceneritori di Colleferro veniva bruciato praticamente di tutto, senza tutta questa, appunto, questa grande solerzia nel porre alla sbarra a queste persone o nello stigmatizzare queste persone. Quindi ricordiamo che a resistere contro l'inceneritore, almeno qua nei Castelli Romani, è stata tutta una popolazione. Fin dal 2007 noi lottiamo contro questo progetto infame, dannoso ed inutile, e per adesso pare che abbiamo vinto. Ora tocca fare la campagna di solidarietà con chi si ritrova nelle maglie della repressione. Quindi tutte le forme sono buone, Occupazioni Precari Studenti sta facendo girare un appello, una raccolta firme per dire no per dare la propria solidarietà ad Adriano e Gianluca, per dire no all'utilizzo della categoria terroristica come se piovesse, e soprattutto per dire no a questo obbrobrio, questo vulnus costituzionale che è il processo per videoconferenza. L'appello è già stato firmato da più di un centinaio di persone, prevalentemente lavoratori, disoccupati, precari e studenti dei Castelli Romani, ma anche gente da tutta Italia, e potete trovare le istruzioni, potete trovare il testo dell'appello sul blog di OPS, occupazioniprecaristudenti.noblogs.org, per firmarlo mandate il nome, cognome, professione, età e città di provenienza all'email adrianoegianlucaliberi@autistici.org. E rimaniamo sempre nei Castelli Romani, visto che parlavamo dei grandi inquinatori e speculatori che non si pigliano che non vengono messi in carceri speciali come le persone che invece dal basso resistono alle loro malefatte, c'è stato il primo round del processo di a Cerroni il 5 giugno scorso, un processo che ha visto appunto alla sbarra il Cerroni e il suo cerchio magico di faccendieri e di dirigenti che sono appunto sotto accusa per traffico di rifiuti e per le sovraffatturazioni e via dicendo. Primo round che ha visto un rinvio dell'udienza, perché oltre appunto alla pubblica accusa si sono costituiti come parti civili tutta una serie di enti locali, praticamente quasi tutti i comuni che sversano in discarica, anche se spesso ricordiamoci sempre che la lettera di richiesta per un inceneritore indirizzata alla Regione Lazio, il signor Manlio Cerroni, partì proprio nel lontano 2007 dagli amministratori locali, però vabbè, questi sono i corsi e ricorsi storici, insomma enti locali ma anche associazioni e via dicendo, che si sono costituiti come parte civile e che appunto hanno indotto il PM a chiedere di rinviare l'udienza per vedere le varie carte, per i vari accolli che i comuni stanno dando a Cerroni. Però noi cosa possiamo dire su questo? Innanzitutto vogliamo dire a gran voce che non dobbiamo fare in modo che il processo a Cerroni porti alla condanna dell'ultra ottantenne di turno, che viene così estromesso dalla gestione delle discariche, una gestione che è stata indubbiamente sia fallimentare dal punto di vista delle politiche pubbliche, sia dannosa punto di vista della nostra salute sia profittevole nei confronti del portafogli di questi individui, ma insomma non è che condannando Cerroni e mettendolo fuori si sia risolto il problema, perché vi è il concreto rischio che arrivi un altro monopolista, magari si faccia una bella holding di Caltagirone su magari con Amace e via dicendo, che torni a gestire le cose nello stesso modo di prima, con gli stessi appoggi politici che c'erano prima e che sono quelli che governano ancora oggi, perché il signor magari sarà cambiato il signor Marrazzo, sostituito dal signor Zingaretti e Polverini nel frattempo, ma la lobby al potere in regione e negli enti locali è sempre quella. Dire sì, ok, si faccia chiarezza su ciò che Cerroni ha combinato in questi anni, ma si inverta anche la tendenza nella gestione di un bene pubblico, fa strano chiamarlo bene pubblico, come la monnezza, che la monnezza venga gestita in un nuovo modo, innanzitutto pubblico, e soprattutto che la popolazione riesca a controllare, a sorvegliare come viene gestito il ciclo dei rifiuti, ma non solo il ciclo dei rifiuti, un po' tutti i servizi pubblici. C'è poi il un altro fattore che è quello delle bonifiche. Se ne sta parlando in questi periodi a Colleferro, dove si sta dicendo ok, abbiamo inquinato e ora facciamo una bella bonifica. Le bonifiche ovviamente vengono fatte dalle stesse aziende che hanno inquinato, magari mettendo un po' di cercando di asciugare il terreno con delle coltivazioni transgeniche, magari per fare qualche bel biogas, qualche bel biodiesel inquinante tanto quanto i carburanti normali, ed è quello che sta succedendo non solo a Colleferro, ma sta succedendo anche nella Terra dei Fuochi, in Campania, dove da novembre scorso si sta lottando affinché questo non avvenga. Le bonifiche quindi ci dovranno essere, ma dovranno essere bonifiche vere. Innanzitutto dovranno essere pagate da chi ha inquinato e soprattutto non dovranno essere gestite da chi ha rubato e chi ha inquinato. E anche qua quindi ci sarà bisogno di fare una battaglia per una bonifica pubblica e sotto controllo popolare, che vada veramente a tentare di risanare un terreno che, per quanto riguarda i Castelli Romani, è da 35 anni che viene inquinato e devastato. E quindi facciamo uno stacchetto musicale. Questa è il gruppo amico dei Sanacore Folk Band, questo è il loro live in Caivano, e cantano Bella Ciao. Massimo, vaffanculo con questa cosa, anzi volevo dedicare un siete, scusatemi l'allegoria, siete la merda della gente, ai voti per la Lega Nord che sono usciti alle ultime elezioni. Alle ultime elezioni. E se proprio dobbiamo trovare una cosa da festeggiare in questa festa della Repubblica, a me l'unica cosa che viene da pensare è a liberazione dei fascisti. E quindi l'unica canzone che posso cantare e che posso dedicare a questa giornata non è sicuramente una canzone che parla di inno nazionale, di bandiera tricolore e il resto, ma potremmo parlare una cosa, come facevano i nostri avi nel tempo, con una bandiera rossa a mano e cantavano questa canzone. Svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se io muoio a partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire là sui montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire là sui montagna, sali in un mezzo, di che le cerchi ti passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno, mi diranno che mezzo, e questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E ritorniamo in onda con Oxcop Connecting Fight, la trasmissione sulle lotte ambientali e del lavoro in Italia, nei Castelli Romani e nel mondo. Questo non era il live a Caivano della Sanacore Folk Band, ma è il live a live a Pascarola. Chiediamo scusa ai nostri amici della Sanacore Folk Band. Torniamo a bomba sulle notizie dai Castelli Romani. Esattamente, rimaniamo sempre in zona discarica, parliamo di Albano Laziale. Prendiamo la notizia da Castelli News, dove pare che il commissariato di Albano ha sequestrato una discarica abusiva a Santa Palomba, nell'area industriale. Insomma, questa discarica abusiva era un terreno privato di circa 50.000 metri quadrati e le guardie là ci hanno trovato praticamente di tutto. Gli hanno fatto un imbocco a sorpresa e hanno trovato asfalto, guaine, plastica, metalli, pneumatici, oli, insomma, tutto materiale che ovviamente non si stocca alla Carlona. Secondo i primi riscontri, l'attività abusiva di sversamento dei rifiuti dovrebbe essere iniziata all'incirca un anno fa e quindi sono stati denunciati per violazione della legge sui reati ambientali, quindi certificazioni false, smaltimento di rifiuti pericolosi e discarica abusiva, i titolari della ditta che teneva il terreno, ma anche delle ditte subappaltatrici delle ditte che davano il servizio di scarico. E quindi ci verrebbe da dire, ok, quando chiudete il Roncigliano, perché insomma anche quella in alcuni punti è ampiamente abusiva. Buttiamo ora uno sguardo maggiormente pancastellano, prendendo un articolo del Mamilio, visto che il governo Renzi ha rivolto un appello ai sindaci di tutta Italia per segnalare gli immobili abbandonati oppure i grandi cantieri fermi e varie grandi opere che appunto sono rimaste come delle cattedrali nel deserto. Il Mamilio ha provato a fare una lista di questi mostri incompiuti nei Castelli Romani. Ovviamente ricordiamo sempre, i sindaci possono segnalarlo entro il 15 giugno all'email matteo@governo.it. Magari se la prossima volta ci mette il soprannome invece del nome, così fa anche più familiare, fa più fonzi. E quindi ci sono una serie di opere che ora non andremo a elencare tutte per motivi di spazio, ma sicuramente la prima è la grande vela di Calatrava a Frascati, in mezzo alle in quel nulla che sono le rotonde di Tor Vergata, questo enorme mostro che credo che si veda anche dallo spazio come la muraglia cinese, solo che la muraglia cinese c'aveva un'utilità ed è stata anche effettivamente utilizzata, questo mostro di acciaio bianco appunto che svetta per Tor Vergata e che si vede da qualsiasi punto dei Castelli Romani, doveva essere utilizzata per i mondiali del nuoto del 2009. Ovviamente non è stata finita, come un sacco di opere per i mondiali di nuoto del 2009, e si sperava di riutilizzarla per le Olimpiadi del 2020, che ovviamente per fortuna non andranno all'Italia, se no sai quanto altro cemento ci facevano, e ora rimane là immota, inconclusa. Qualcuno pensava di farci un multisala qualche tempo fa, insomma un bel multisala nel nulla e via dicendo. Per rimanere a Frascati c'è l'ex piscina comunale che è abbandonata da più di 25 anni, io personalmente non l'ho mai ricordata in attività. Vi è poi la bazzica di Grottaferrata, ristorante sequestrato dall'antimafia, per cui la cooperativa Capodarco, una cooperativa che si occupa di inserimento al lavoro dei disabili, su cui questa cooperativa appunto aveva un progetto, che però è ancora ferma e vuota, a parte il periodo in cui gli infami di Casa Pound hanno provato a occuparla per quelle 12 ore. Poi ci sono Rocca di Papa con lo snodo di Squarciarelli, la Casa Rosa di Via dei Principi, che è stata sequestrata alla criminalità e che è ormai abbandonata, oppure il castelletto di Castel Gandolfo, il Teatro Petrolini, che è stato aperto e poi chiuso nel 2008. Se si arriva a Genzano, invece, come noi lo sappiamo bene, c'è il Teatro Carlo Levi, che è un'altra opera faraonica che è rimasta incompiuta e rimane là nel degrado e nell'abbandono. E poi c'è Palazzo Panfili ad Albano, che è abbandonato anche questo da decenni. E poi il Mamiglio cita anche Velletri, noi non la consideriamo Castelli Romani, ma c'è anche il Teatro Artemisio, che è stato riaperto l'anno scorso dopo 30 anni di abbandono. Quindi ovviamente grandi sprechi che ovviamente hanno fatto fare soldi a qualcuno, ai grandi architetti, a chi le ha costruite, e che poi sono rimaste disabitate o inutilizzate. Il nostro appello ovviamente è riprenderci tutti questi luoghi che sostanzialmente sono nostri, li abbiamo pagati, li abbiamo ampiamente pagati sprecandoci dei soldi sopra, e che ora appunto si spera che ritornino alla collettività. Prima di passare al piano nazionale, diamo un altro stacco musicale, rimaniamo sempre nel grandissimo meridione, questa è la pizzica minore dei Musica Nova. We'll be right back. E ritorniamo in onda con Oops Connecting Fights. Questi erano i Musica Nuova. Ci aggreghiamo al loro appello che ci arrivi appunto una nuova musica senza schiavi né padroni, una nuova festa senza santi e peccatori e via dicendo. Insomma, però pare che la musica non cambi, perché passiamo alle notizie dalla penisola. Ieri alle 6:30 c'è stata una manifestazione a Castelnuovo di Porto, al centro di accoglienza per i richiedenti asilo, e che sono nuovamente tornati a mobilitarsi contro la cooperativa che gestisce il CARA. Questo caso, appunto, la cooperativa Auxilium, che secondo i manifestanti fornisce loro una mensa praticamente di qualità pessima, e non eroga loro il pocket money, che sono quei 4 spicci che il governo italiano dovrebbe dare a chi fugge appunto da guerre, persecuzioni e via dicendo, per sostenersi mentre è qua in Italia. Le proteste sono iniziate all'incirca un mese fa. Ci fu un tavolo con appunto tra la cooperativa e la prefettura, ma dopo tante promesse le condizioni non sono cambiate, e nuovamente ieri la prefettura e la cooperativa hanno detto: no, i soldi non ci sono, quindi arrangiatevi. Ovviamente chi sta al CARA su quei soldi ci fa affidamento per mantenere i propri figli, la propria famiglia con cui si è, e per sostenere se stessi. Quindi i migranti, i richiedenti asilo hanno subito fatto un blocco stradale sulla via Tiberina, che è stato immediatamente fronteggiato da un ingente schieramento di forze dell'ordine, sia di polizia che di carabinieri, e addirittura i militari che sono di stanza dentro il CAR e che in teoria l'ordine pubblico non dovrebbero farlo. E nessuno, né tra le guardie né tra i responsabili della cooperativa, ha cercato di avviare una mediazione con i richiedenti asilo, che appunto chiedevano soltanto di veder rispettato un loro diritto alla vita dignitosa. Invece gli hanno intimato di andarsene, coadiuvati anche da i nostri simpatici compatrioti, che stavano irritati per il blocco stradale, senza porsi minimamente il problema il perché qualcuno stesse facendo un blocco stradale. Sono stati presi ed insultati appunto dagli automobilisti in coda. Noi abbiamo preso la notizia da dinamopress.it, in cui ci sono i video del Cotral, l'autobus locale che a momenti investe un ragazzo che stava sdraiato in mezzo alla strada. E poi ci ha pensato la polizia a buttare a terra, a trascinare per i capelli, a prendere a pugni e a calci i manifestanti. Quindi la musica a quanto pare non cambia, e soprattutto molti dei nostri connazionali fanno sempre i forti con chi è più debole, forse invece di fare il ballo dei pezzenti, ovvero di andare a sputare a chi sta più sotto, forse se ci mettessimo tutti insieme andassimo contro chi ci mangia in testa, forse sarebbe maggiormente auspicabile, ma come si può dire, la perfezione non è di questo mondo. E rimaniamo in Italia con una punta in quel di Kiev, anzi in quel di Donetsk. Prendiamo la notizia da rainews.it, dove veniamo a scoprire che sono nate le brigate internazionali. Non stiamo parlando della Spagna del 36, che si difendeva contro l'offensiva fascista e franchista del padronato cosiddetto spagnolo, ma si tratta dei membri di quella che Rai News definisce un'organizzazione antifascista italiana, che sono giunti a Donetsk per unirsi alle milizie paramilitari filorusse comandate da Igor Strelkov, che è il cosiddetto sindaco popolare della Repubblica Popolare di Donetsk. Rai News cita la pagina Facebook di questo Strelkov, che parla di questi italiani unici che hanno espresso la volontà di sostenere la Repubblica Popolare e la sua resistenza contro le autorità di Kiev. Gli italiani sono messi a disposizione del comandante in capo, cioè lo stesso Strelkov, e intendono attivare un canale per la raccolta in Italia di invio di aiuti umanitari al Donbass. E quindi questo è ciò che riporta il sindaco di questa città, ma andiamo a vedere chi è questa associazione Millennium, che dalla loro pagina Facebook smentiscono l'articolo, fanno delle precisazioni doverose, dicono che innanzitutto Millennium non è né antifascista né fascista, ma è comunitarista ed europeista. Quindi già queste brigate internazionali cominciano a sfaldarsi. I rappresentanti di Millennium non si trovano sul posto come combattenti, ma per testimoniare la loro solidarietà, bla bla bla bla bla bla bla bla. D'altronde, se vedete le loro facce e vedete la faccia di chi vi sta parlando, io al confronto potrei essere il feroce Saladino. Ma chi sono appunto Millennium? Millennium è una scissione del movimento neofascista Stato e Potenza sono, come dicono loro stessi, né antifascisti né fascisti, ma comunitaristi ed europeisti. Cioè, significa che tutti i popoli sono belli, ma quando ognuno rimane a casa propria. Noi invece crediamo che il marxismo, oltre a dover essere antifascista, perché il fascismo non è altro che una reazione del padronato contro le masse popolari che chiedono giustizia, libertà, dignità, e ribaltamento del modo di produzione, questi invece sono dei fautori dei confini, gli stessi confini che vedono gli immigrati del Cara vivere, che si sono ribellati ieri, vivere in condizioni inumane. Sono per i padroni, basta che siano italiani, poi perché lo sfruttamento da parte di un padrone italiano è sicuramente migliore, secondo loro, da parte di uno sfruttamento di un padrone straniero. Noi crediamo che forse è meglio smettere di forse è meglio uscire dalla guerra fredda, perché la guerra fredda, forse la divisione in blocchi nel mondo forse aveva un senso fino all'89, oggi non ha più senso. E se il nostro appello è ovviamente a smettere di ragionare sui blocchi geopolitici, la geopolitica esiste, è anche una bella materia di studio, ma forse sarebbe meglio mettersi a preoccuparsi più della lotta di classe, dei popoli e delle aspirazioni dei popoli in Ucraina, in Siria, in Italia, in Francia, in Grecia e in tutto il mondo. Quindi facciamo, prima di passare agli internazionali in senso stretto, facciamo un altro stacco musicale, ci spostiamo da un sud del mondo a un altro sud del mondo. Queste sono Actitude Maria Marta dall'Argentina, per dirla come lo dice il nostro amico Andrea, e questa è Chimeras. Scusate lo scarso spagnolesimo. Estamos, da lo mismo de donde venimos. Esta es la nueva onda. rompa la pista, menea tu cadera al ritmo antiimperialista. Están iluminando, como los santos nos están invocando, para que la historia de una vez vaya cambiando. Son los espíritus guerreros clamando, desde la historia regresan iluminando, como los santos nos están invocando, para que la historia de una vez vaya cambiando. E ritorniamo in onda con Oops Connecting Fights, la trasmissione sulle lotte ambientali del lavoro che si svolgono nei castelli romani, in Italia e nel mondo. Passiamo alla rassegna stampa internazionale, andiamo all'Egitto, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, dove si erano appena svolte le elezioni presidenziali, le elezioni farsa presidenziali, che hanno visto l'ex membro dell'esercito Abdel Fattah el-Sisi vincere con un bel 96%, con Renzi che cercava di capire come aveva fatto per bissare il proprio successo. E ci arrivano, l'altra volta abbiamo parlato di repressione, e ci arrivano nuove notizie proprio da pubblicate oggi dal quotidiano libanese Al-Akhbar, dove 25 attivisti sono stati condannati a 15 anni di carcere. E infatti un tribunale egiziano ha condannato l'attivista di sinistra Ala Abdel Fattah e altri 24 persone a 15 anni per aver violato la legge contro le manifestazioni e per altre imputazioni. Abdel Fattah è stato uno delle figure simbolo della sollevazione del 2011 contro il presidente Mubarak. E queste si fa notare come queste condanne arrivano appunto proprio 3 giorni dopo la vittoria alle elezioni di Sisi. Quotidiano poi continua a dire che dalla caduta di Mohamed Morsi, cioè il precedente presidente facente riferimento alla Fratellanza Musulmana, che è stato deposto da un colpo di Stato avvenuto dopo una settimana di mobilitazioni popolari molto partecipate. Appunto, a partire dalla caduta di Morsi, le forze di sicurezza egiziane hanno ucciso centinaia di sostenitori dei Fratelli Musulmani e ne hanno arrestate altre migliaia, tra cui appunto all'ordine della settimana a leggersi la notizia di gruppi di persone che possono raggiungere anche il centinaio o anche più del centinaio che vengono condannate in blocco alla pena di morte solo per essere legate ai Fratelli Musulmani. In questo caso invece Abdel Fattah con gli altri attivisti sono stati condannati per aver violato la legge contro le manifestazioni E Fattah, e Abdel Fattah, come molti altri, fa parte di quella cosiddetta area grigia, cioè quella componente rivoluzionaria della popolazione egiziana che dice non stiamo con l'esercito, ma non stiamo neanche con la fratellanza musulmana. E sono quelli che appunto stanno subendo una grossa spirale repressiva come ogni dissidente all'interno del bellissimo Egitto. Per rimanere in Egitto abbiamo appena trovato una lettera tradotta dal quotidiano Madam Asr, una lettera dal carcere dell'avvocatessa Mayenur al-Masri, attivista dei socialisti rivoluzionari, sulla cui carcere, che è stata appena condannata a 2 anni di reclusione per aver appunto manifestato fuori dal tribunale che processava, in cui si svolgeva l'ennesimo un processo di mala polizia in Egitto. E andiamo a fare una traduzione volante di questa lettera, che dice: non so molto di ciò che sta avvenendo nel mondo esterno da quando sono stata carcerata, ma posso immaginare che sia come ogni volta in cui qualche altro compagno è stato imprigionato. Il mondo di internet è pieno di slogan come libero questo, libera quella, e siamo tutti questo, siamo tutti quell'altro. Comunque, da quando ho messo piede nel carcere femminile di Damanhur, sono stata reclusa nel blocco 1, cioè il braccio in cui sono rinchiusi coloro che sono accusati o condannati di aver rubato, di appropriazione per appropriazione indebita. E da quando sono entrata in carcere mi viene in mente soltanto una frase che mi ripeto quotidianamente: abbasso questo sistema classista. La maggioranza delle mie compagne di cella sono state carcerate per bancarotta, per non essere riusciti a pagare dei piccoli debiti. Ci sono dei debiti che sono stati contratti magari da una madre, che gli servivano per comprare delle cose strettamente necessarie, o per lei, o magari per la figlia che doveva essere sposata, o da mogli che avevano bisogno di denaro per pagare le cure mediche per i mariti, o magari donne che non riuscivano a ripagare un debito di 2.000 sterline in tempo e quindi si sono ritrovate con una multa di 3 milioni di sterline. E la prigione è un microcosmo della società. Quelli che sono un po' più privilegiati degli altri trovano il modo di ottenere ciò di cui hanno bisogno all'interno del carcere, mentre quelli che non sono privilegiati sono costretti a lavorare per poter soddisfare i propri bisogni primari. La prigione è un microcosmo della società. I prigionieri discutono di cosa sta succedendo nel paese e ci puoi trovare all'interno l'intero arco politico. Alcuni supportano Sisi nella speranza che, diventando presidente, possa fare un'amnistia a quelli che sono stati carcerati per bancarotta. Altri vogliono che diventi presidente perché prenderà una posizione forte contro le tra virgolette proteste terroriste e affinché possa governare con il pugno di ferro, anche se simpatizzano con la mia situazione e ritengono che io sia innocente, probabilmente. Altri sono sostenitori di Sabahi perché lo vedono come uno di loro, come un uomo del popolo, perché ha promesso di fare un'amnistia, o solo perché ha promesso di liberare i prigionieri di coscienza. E ci sono quelli che vedono le elezioni come una farsa e che le avrebbero boicottate se fossero stati in libertà. La prigione è un microcosmo della società. Mi sento come se fossi in mezzo alla mia famiglia. Mi stanno tutti consigliando di concentrarmi maggiormente sulla mia carriera e sul mio futuro una volta che sarò fuori. E io gli rispondo dicendogli che il popolo egiziano merita molto di più, e che ancora non c'è stata giustizia e che continueremo a provare a costruire un futuro migliore. A questo punto ci ha raggiunto la notizia della condanna di Hosni Mubarak a 3 anni per corruzione, sottrazione di fondi pubblici e frodi finanziarie. E sentendo la notizia ho chiesto loro quale tipo di futuro si aspettassero di avere in una società ingiusta, in una società, in un regime che crede che Muhammad, cioè una signora madre di Ahmed, che è stata carcerata per gli ultimi 8 anni e ancora 6 anni da vivere in carcere per un debito di per un assegno scoperto di 50.000 sterline, se sia più appunto, se una donna come lei, in un regime che ritiene che una donna come lei sia più criminale, un criminale più pericoloso di Mubarak. Lo stesso Mubarak che poi supporta Sisi. E qui parlano della società classista e del sogno di una giustizia sociale con varie teorie complesse. Il tempo è poco, quindi noi dobbiamo andare avanti. Ecco, mentre noi cantiamo dei cori contro la legge, contro le manifestazioni, dovremmo lavorare per abolire questo sistema classista, organizzarci e interagire con il sottoproletariato e parlarci, parlare dei loro diritti e costruire una visione, una narrazione che renda possibile la soluzione dei loro problemi. Dovremmo cantare libertà per i poveri, così che il popolo non si senta isolato dai loro problemi. E finalmente, infine, dovremmo fare degli slogan, dovremmo cantare Free Saida, Free Iba e Free Fatima, le 3 ragazze che ho incontrato al direttorato della sicurezza, accusate di essere membri della fratellanza musulmana e di aver commesso e accusate di omicidio insieme a varie altre cose. Sono state arrestate per caso e sono in carcere da gennaio senza processo. E quindi continua con la lista delle varie donne che sono state carcerate con l'accusa di essere legate appunto ai fratelli musulmani o via dicendo. Il nostro dolore in confronto a loro è nulla e sappiamo che c'è gente che ci ricorderà e che dirà i nostri nomi. Invece queste donne che hanno bisogno di essere ricordate verranno ricordate soltanto nelle loro riunioni di famiglia. Quindi abbasso con questa società classista fino a che non abbatteremo questo sistema di ingiustizia. C'è la 8 del braccio 1 della carcere femminile di Dama Nur. Quindi scusate per la traduzione un po' arrangiata. Volevamo leggervi gli aggiornamenti dall'Iraq, dove lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante sta conquistando province irachene in maniera, se non altro, sospetta. Non ne abbiamo il tempo e quindi prima di leggere gli ultimi articoli facciamo un altro stacco musicale. Questo è il rapper greco Killa P che canta Sigami Clapso o Sigami Fobito, Mifobito, che significa non perderò tempo a piangere, non perderò tempo ad aver paura. Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάθεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάβερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πλήξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και θλίψει. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, σκάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μην κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σου δεν πρόδωσαν με πίσω μαχαιριέ. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψουν. Και για αυτέ τι αγάπε τι παλιέ, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψουν. Κι όσοι μα φίλησαν με πύρινα δεσμά, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε φοβικό. Να βγουν να με βρουν στην κορυφή ψηλά, του περιμένω και σιγάνε φοβικό. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά. Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά. Που εκεί πάνω της στο φόβο την ασχήμια. Και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μάται και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ. Κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν. Σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν. Σ' αυτήν την έξυπνη απάτη, την καλωστημένη. Για σου με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψουν. Κι όσοι μα φίλησαν με πύρινα δεσμά, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε φοβικό. Να βγουν να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και για σου με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψουν. Κι όσοι μα φίλησαν με πύρινα δεσμά, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε φοβικό. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και E ritorniamo in onda con Ops Connecting Fights, la trasmissione sulle lotte ambientali e del lavoro e sulle rivoluzioni che avvengono nei castelli romani, in Italia, in giro per il mondo. Ultima tranche di articoli per questa puntata e in questo caso pigliamo l'articolo da Giornalettismo, articolo ad opera di Mazzetta, le vendite d'armi da record dei pacifisti europei. E in pratica l'articolo mette in luce una bella realtà, bella tra virgolette, praticamente la Svezia e la Svizzera, due paesi storicamente neutrali e durante la Guerra Fredda, la Svizzera anche ora, e tendenzialmente la Svezia fu anche un'avanguardia del movimento pacifista, si viene a scoprire che sono tra i maggiori esportatori di armi al mondo. In questo caso la Svezia è il terzo paese al mondo per valore pro capite nell'export di armi, venendo subito dopo la Russia e l'entità sionista, e mentre la Svizzera si piazza al quinto posto. Per fatturato si può dire che in valore assoluto la Svezia è il nono paese e la Svizzera è il quindicesimo, quindi posizioni di tutto rispetto. Questo però viene fatto con un bel velo di ipocrisia, come ci ha ben abituati il capitalismo mondiale, perché le leggi di Stoccolma e di Berna impedirebbero di vendere le armi a quei paesi che non rispettano i diritti umani e quindi solo a acquirenti legittimi che ne facciano un uso legittimo. Quindi praticamente si può dire è nessuno. Il problema per questi paesi è che durante la Guerra Fredda vendevano le loro armi, i loro equipaggiamenti militari ai paesi buoni, tra virgolette, del mondo occidentale, che però magari qualche tutela democratica in più ce l'avevano, e con la fine della guerra fredda è anche diminuita la corsa agli armamenti e quindi i due paesi sono trovati poverini costretti a dover piazzare le loro armi in giro per il mondo e quindi anche verso quei paesi che magari una volta sarebbero stati off limits. Infatti l'articolo cita Stefan Dietiker, che è il segretario del gruppo per una Svizzera senza armi, in cui afferma che è illusorio credere che le autorità svizzere siano in grado di controllare se le armi o le munizioni siano usate per commettere abusi dei diritti umani. E una volta che hanno lasciato il paese sono andate, non importa quante clausole sottoscrivano i compratori o quante promesse facciano. E infatti sottolinea che l'export non militare è altrettanto più florido, tant'è che le armi leggere svizzere sono, pare che abbiano un'ottima reputazione. E inoltre in Svezia ci sono stati anche una serie di scandali per la gestione appunto del complesso militare industriale, ad esempio quello in Arabia Saudita, dove si cercavano di costruire, i vari governi hanno cercato di costruire delle società fantoccio per avviare la costruzione di impianti di armamenti in Arabia Saudita, che insomma non è che sia proprio né un garante della democrazia né un grande sostenitore dei diritti umani. Ma si fa anche l'esempio delle tangenti per delle forniture all'aviazione indiana, del caccia Saab Jag 39 Gripen, con cui la Svezia fa una campagna di marketing abbastanza serrata, tanto da partecipare anche alle missioni della NATO, ad esempio la missione in Afghanistan. Sebbene non sia un paese membro della NATO, si è ricavata una partnership particolare che gli permette appunto di partecipare alle varie campagne. Quindi ha partecipato in Bosnia, in Kosovo, in Libia, in Afghanistan, e secondo i dati trapelati da Wikileaks pare che proprio la maggior preoccupazione delle autorità svedesi fosse quella di far partecipare i propri caccia per far vedere che funzionavano bene e per venderli alle forze alleate. Quindi l'articolo intero lo potete leggere su Giornalettismo, si intitola Le vendite d'armi da record dei pacifisti europei. Questa, insomma, la buona ipocrisia del sistema militare industriale. D'altronde ricordiamo che 2 anni fa sollevò un grande scandalo negli Stati Uniti il fatto che a una parata una parata commemorativa per la fondazione del movimento del Jihad Islamico in Palestina fossero stati ritratti nelle foto dei membri del braccio armato del Jihad Islamico con in mano dei mitra di fabbricazione belga, e quindi è scoppiato tutto lo scandalo. Oibò, ma i belgi perché hanno dato hanno venduto le loro armi a un'organizzazione che tecnicamente in Europa viene considerata organizzazione terroristica? E poi sono state le più disparate ipotesi. Pare che i belgi le avessero venduti ai libici, e dopo il macello che è successo in Libia gli arsenali si sono un po' sparsi tra i jihadisti di mezzo Medio Oriente e Nord Africa. E quindi arriviamo all'ultima notizia, sempre presa da Giornalettismo, sempre ad opera di Mazzetta. Questa potrebbe essere servire per inaugurare una nuova rubrica Scienza e Tecnologia. I televisori connessi in rete sono porte spalancate all'hacking. In pratica, due esperti informatici hanno Josef Oren e Angelos Keromitis hanno pubblicato un documento nel quale dimostrano la vulnerabilità agli attacchi degli hacker delle smart TV connesse a internet, cioè quelle televisioni nuove che ti permettono di accedere anche a YouTube, insomma tutte questi aggeggini, questi nuovi aggeggini informatici, e dicono che sono delle porte spalancate sulla rete e che consentono qualsiasi genere di abuso anche a un hacker mediamente inesperto con l'attrezzatura di qualche centinaio di dollari. In sostanza gli attacchi avverrebbero non via rete ma tramite la trasmissione via etere che questi televisori fanno, e che quindi rendono anche praticamente impossibile ricostruire la provenienza di un attacco, mentre l'attacco informatico propriamente detto lascia delle tracce che, se si è abbastanza bravi e fortunati, si riescono a seguire. In questo caso c'è proprio l'aggancio all'etere, alle onde radio e non alla rete internet. E quindi abbiamo i nostri. Possiamo permettere anche a quello che ci abita di sopra, al nerd che abita sopra di noi, che potrei essere io, insomma, di spizzare i cavoli vostri. D'altronde, questo, aggiungo io, non è nemmeno la prima volta che questi strumenti si scoprono vulnerabili. Ci fu l'anno scorso lo scandalo delle Apple TV, queste smart TV come le chiamano oggi, le cui webcam erano praticamente delle porte aperte sul mondo, quindi chiunque poteva vederti in mutande davanti al divano. E in quel caso la soluzione, visto che la Apple chiude i codici sorgenti e non permette una gestione partecipata dei propri software, l'unica soluzione era mettere un post-it sulla webcam e si risolveva tutto. Ovviamente noi facciamo appello a studiarsi l'informatica, a studiare come si usano gli strumenti informatici e soprattutto come tutelare i propri dati personali. Cioè noi come non andiamo a raccontare i cazzi nostri in piazza, così dovremmo essere abbastanza bravi da essere accorti da non raccontarli nemmeno sul web, che è un'altra piazza. Questa era l'ultima notizia, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre alle 19, sempre su Radio Default. Ricordiamo i contatti della radio, www.radiodefault.it, la nostra pagina Facebook Radio Default, e ricordiamo che questa trasmissione è gestita da Occupazioni Precari Studenti, il collettivo dei Castelli Romani che lotta contro nocività e precarietà. E con il nostro simpatico blog occupazioniprecaristudenti.noblogs.org, dove potete trovare i nostri comunicati e soprattutto l'appello ad Adriano e a Gianluca, per Adriano e Gianluca. Quindi noi ci sentiamo la prossima settimana, buona libertà a tutti e a tutti, ai Castelli Romani nel mondo, e un abbraccio solidale sempre appunto a Gianluca e ad Adriano. E questi sono i Group Your Room che cantano Gulei Chan.